finito con un joint nel parcheggio dell'hotel. Le tue ultime parole non mi importa più di me. Parole non mi importa più di te né di noi, no. Oh oh oh, è la fine. Oh oh oh, è la fine, te lo giuro. Fra di noi non c'è futuro. Le promesse vanno in fumo, non puoi farci niente. Le tue labbra sono fredde, proprio come due manette. Certe frasi vanno strette, ci mettiamo un punto. Ho brutte abitudini, lo vedi che non siamo lucidi da ieri. Hai gridato scusami per mesi, ora puoi uccidermi, I'm ready. Passa così, non parliamone più. Quando arriva il weekend ho le paranoie. Lasciami qui con il peggio di me a soffiare la cuccia, la mia prigione. Finita con un joint nel parcheggio dell'hotel. Le tue ultime parole non mi importa più di te né di noi, no. Oh oh oh, è la fine. Oh oh oh, è finita con un joint nel parcheggio dell'hotel. Le tue ultime parole non mi importa più di te né di noi, no. Oh oh oh, è la fine, le ultime tre cartine, i due tiri prima del filtro, la sbrisa nelle bustine, la brigna di ste mattine, gli sbirri dentro al cortile, gli squilli senza risposte, l'amaro dopo una cena, un bacio però la morte, il sole che sfuma dietro un aler, la schiuma del mare, le cinture per atterrare, quella porta che si chiude a chiave. È finita e forse nessuno di noi lo voleva. Se nessuno di noi ci crede. È finito con un joint nel parcheggio dell'hotel. Le tue ultime parole non mi importa più di te né di noi, no. Oh oh oh, è la fine. Oh oh, è finito con un joint nel parcheggio dell'hotel. Le tue ultime parole non mi importa più di te né di noi, no. Oh oh oh.